America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, siamo nel momento in cui si dibatte politicamente post sconfitta democratica. Oggi Barack Obama riceve la leadership repubblicana alla Casa Bianca, si cercherà di impostare un dialogo per governare insieme, soprattutto, credo, spero, immagino, in materia di accordi commerciali. Nel fine settimana Obama andrà a Pechino per il vertice dell'APEC e parlerà proprio di queste tematiche, lo ha annunciato. Ma vi racconterò da lì la settimana prossima, prima da Pechino, poi da Brisbane in Australia, al seguito del presidente, dei più recenti sviluppi sia interni che internazionali dal punto di vista economico e politico. Oggi, venerdì, vorrei soffermarmi, come faccio spesso, su tematiche culturali. And this is what Michelangelo and I have in common. We come from a city under the Alps in Italy called Torino. Ecco, quello che avete sentito è un dibattito per la presentazione del libro in inglese The Voice of Pistoletto, scritto dal nostro grande artista, grande rappresentante dell'arte povera, con lo scrittore italiano Alain Elkann. Devo dire, è stato un dibattito molto interessante ed è stato un dibattito che mi ha portato a riflettere sulla cultura italiana in America e sul mercato, diciamo, della letteratura in America, che qui continua ad essere molto attivo, mentre da noi ci sono ovvie difficoltà. Per la nostra cultura un grande punto di riferimento in America, per esempio, è Primo Levi. Durante una mia visita a un college a Washington appena la settimana scorsa, uno dei temi assegnati agli studenti riguardava proprio il libro Se questo è un uomo di Primo Levi. Sia in America che in Europa, sempre in tema letterario, sono state polemiche attorno a un altro libro che tratta di Auschwitz, il romanzo di Martin Amis, Zone of Interest, racconta del campo di concentramento in un modo, diciamo, come dire, un po' fuori dalle righe, cerca di normalizzare, tra virgolette, alcune delle esperienze che ci sono state, ovviamente mettendo in evidenza anche gli orrori di quello che è stato Auschwitz. E sempre legato a questo tema, appena qualche settimana fa su Paris Review, che è una delle più importanti riviste letterarie americane, è uscita una lunga intervista con Aaron Appelfeld, che è un grande scrittore israeliano, anzi direi il più importante scrittore israeliano che si occupa dei sopravvissuti dell'Olocausto ed era amico di Primo Levi. Ecco, questa intervista, come vedete il cerchio si chiude, è stata scritta su Paris Review proprio da Alain Elkann. He's trying to find new solutions, because what you will see about his work, and this is interesting, because you will see Michelangelo is very polite, he's not a polemist, he's never angry. Ecco, Alain Elkann è con me qui ai microfoni di America 24, dunque approfitto di lui e del fatto che è qui con noi. Buongiorno Alain. Buongiorno Mario. Ecco, allora Alain, secondo te questo libro di Martin Amis, dacci un po' una tua opinione. È un tema molto delicato, e anche se trasformato in un'opera letteraria, no? Novelized, insomma bisogna camminare con i piedi di piombo toccando questo argomento, che invece Primo Levi descrive straordinariamente bene, cioè descrive con la prosa e la capacità di scrittura di uno scrittore quale lui è, ma anche di testimone. Torniamo anche a Martin Amis. Cos'è secondo te che è stato considerato, tra virgolette, un po' delicato o irriverente da parte dei publishers, degli editori francesi o tedeschi? Cioè la normalità di questo fatto, no? In fondo era una carriera lavorare in un campo di concentramento, no? Allora questa dicotomia tra l'uomo, la famiglia che torna a casa, i bambini, la vita quotidiana vissuta da una famiglia tedesca che però durante il giorno si occupa di massacrare ebrei nei campi di concentramento come se fosse un job. Questo mi riporta alla memoria proprio le parole introduttive nel libro di Levi, no? Per voi che tornate a casa, che avete una casa tranquilla, che avete il calore domestico, che avete il cibo sui vostri piatti, se vi dimenticate di quello, dovreste essere, non so, maledetti. Quello che è molto bello nel libro di Levi è una descrizione così, senza, non è che lui parla male dei tedeschi, non è un libro in cui lui mette in evidenza la vita dei tedeschi, sono così un sottofondo. Lui descrive la vita dei prigionieri nel Lager. Qual è il tuo polso del mondo letterario a New York oggi? È sempre molto vivace la critica letteraria. Pensa a dei giornali come il New York Review of Books o appunto la Paris Review, altre riviste, la poesia, ci sono grandi poeti americani, la figura del poeta nel mondo anglosassone è molto forte. Poi ci sono scrittori, come hai detto te, non c'è un movimento in questo momento, ma direi, hai parlato di Martin Amis, ma direi che Ian McEwan e sono scrittori inglesi, per esempio, no? Che vengono dall'Inghilterra. Ci sono molti scrittori che vengono dall'India, che vengono dal Pakistan, che vengono dalla Nigeria, che scrivono in lingua inglese. Quindi la lingua inglese è molto ampia oggigiorno. Ecco, l'inglese. Quanto è importante oggi l'inglese per uno scrittore? L'inglese è il latino di oggi, no? L'esperanto del mondo, la lingua più o meno parlata bene o male da tutti, e quindi è una lingua molto libera l'inglese, molto interessante, perché uno ha la possibilità di creare il proprio inglese. Ecco, in Italia forse lo parliamo un po' meno. Quanto indietro siamo noi come paese rispetto ad altri paesi sull'inglese, rispetto non so all'Olanda, alla Svezia? No, l'inglese è una lingua essenziale, cioè chiunque abbia un lavoro, anche un lavoro tecnico, un lavoro scientifico, e a qualsiasi livello sia questo lavoro, ha bisogno di conoscere questa lingua. Questo libro con Pistoletto, come nasce? Nasce da un'amicizia, è simile a un libro che tanti anni fa scrissi con Alberto Moravia, sulla vita di Moravia. Questa volta Michelangelo Pistoletto mi ha chiesto, dice, ma perché non estendiamo un'intervista a una sorta di biografia? E così abbiamo fatto questo libro che è la vita, si chiama La voce di Pistoletto, no? In cui lui racconta con la sua voce, io lo aiuto a raccontare tante cose, la sua infanzia religiosa, la famiglia religiosa cattolica, Torino, la guerra, i tedeschi, i partigiani, e poi il padre che è restauratore, e poi l'inizio, e poi la madre che gli dice trova un vero lavoro, lo manda da Armando Testa a imparare la pubblicità, ma poi lui diventa un artista e diventerà famoso subito, verrà preso dalla scuderia di Leo Castelli, il più grande mercante d'arte contemporanea del mondo qui a New York, con la gelosia di grandi artisti quali Jasper Johns. Però si sa che un grande artista come Rauschenberg collezionava dei quadri di Pistoletto, quindi un artista già famoso in America che a un certo punto fa una scelta di tornare nel suo paese, di tornare a Torino. Non vuole diventare americano e aderisce a quel famoso, prima all'arte concettuale, poi al famoso movimento dell'arte povera, di cui lui probabilmente realizza l'icona, la famosa opera La Venere con gli stracci. Vabbè, insomma, ho parlato di Pistoletto, che è nato e vissuto in gioventù a Torino, Primo Levi nato e vissuto a Torino. Io sono torinese, vedo che artisti, scrittori della mia città, insomma, hanno un certo successo e riconoscimento negli Stati Uniti, e di questo sono felice. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.